Jammy, I don't have a clock. There's a clock here. Ah, it goes. So make sure you're sitting comfortably. Rendetevi sicuri di essere seduti in modo confortevole. So I'm just lifting that spine. Tirate su la spina dorsale. Relaxing the brow. Rilassate le sopracciglia. Eyes gently closed. Gli occhi chiusi gentilmente. The jaw relaxed, lips together, teeth apart. La mascella si rilassa, le labbra sono chiuse, ma i denti sono separati. Shoulders. Le spalle. Hands on your lap, whatever is comfortable. Le mani nel grembo, o comunque una posizione che sia comoda. Acknowledge the position of the body. Riconoscete la posizione del corpo. If the body becomes tense, note tension, tension, and then relax, relax. Se il corpo diventa teso, prendete nota, tensione, tensione, e poi rilassa, rilassa, rilassare, rilassare. If the body slumps, se il corpo si affloscia, then note slumping, slumping. Notate affloscarsi, affloscarsi. And then lifting, lifting. E poi tira su, tira su. Draw the attention now on the sensations caused by the breath. Portiamo l'attenzione sulla sensazione causata dal respiro. Wherever you feel it most, the abdomen, the stomach, the chest. Dove la sentite meglio, l'addome, lo stomaco, il torace. Placing the attention gently on the sensations caused by the breath. Portiamo l'attenzione gentilmente sulla sensazione causata dal respiro. As we breathe in, we note rising, rising. E quando inspiriamo, notiamo salire, salire. And when we breathe out, e quando espiriamo, falling, falling, scendere, scendere, salire, scendere. The attention is on the sensations caused by the breath. L'attenzione è sulle sensazioni causate dal respiro. If the mind is wandering, se la mente va in giro, recognize and acknowledge what it's doing. Riconoscete, prendete coscienza di quello che sta facendo. Planning. Fare dei progetti, piani. Pianificare. Worrying. Preoccuparsi. And then draw the attention gently back to the breath. E poi portate l'attenzione gentilmente di nuovo sul respiro. Feeling even now a little sleepy or tired. Se vi sentite un po' addormentati o stanchi, so lift the spine. Sollevate la spina dorsale. You can open the eyes wide open. Potete anche aprire gli occhi completamente. But keep the attention inward. Ma tenete l'attenzione dentro. And you can also stand up and do this practice. Potete anche alzarvi e fare questa pratica. Relaxing the attention on the gentle sensations caused by the breath. Rilassate l'attenzione sulle sensazioni gentili causate dal respiro. Allowing them to bring silence to the mind. Lasciate che queste portino il silenzio nella mente. Calmness to the heart. E la calma nel cuore. Stillness to the body. E la immobilità nel corpo. Rising, falling. Salire, scendere. If the mind is wandering, se la mente va in giro, really recognize and acknowledge what it's doing. veramente riconoscete e prendete coscienza di quello che sta facendo. Planning. Fare piani, fare progetti. Excitement. Eccitazione. And bring the attention gently back to the breath. E riportate gentilmente l'attenzione al respiro. Make a determination to stay there. Prendete una determinazione di restare lì. If you're feeling sleepy or tired, just keep lifting the spine, open the eyes, or stand up. Se vi sentite addormentati o stanchi, semplicemente tirate su la spina dorsale, aprite gli occhi o mettetevi in piedi. As we become more concentrated, e come diventiamo più concentrati, more focused, più focalizzati, see if you can draw closer to the breath. Andiamo più vicino al respiro. To catch the very beginning of the in-breath, stay with it to the very end. E cercare di cogliere proprio l'inizio del respiro e restarci fino alla fine. The very beginning of the out-breath, stay with it to the very end. E poi proprio l'inizio dell'espirazione e restarci fino alla fine. Once we feel fairly focused, fairly quiet, quando ci sentiamo abbastanza focalizzati e abbastanza tranquilli, we can open up to whatever draws our attention. Possiamo aprirci a tutto ciò che entra nella nostra attenzione. If we hear a bird or some other sound, we note hearing. Se notiamo il suono di un uccello o un altro suono, possiamo prendere nota, udire. We're not interested in the bird, we're interested in the quality of the sound at the eardrum. Non siamo interessati nell'uccello, ma nella qualità del suono a livello del timpano dell'orecchio. It might be a sensation coming from the body, pleasant or unpleasant. Può essere anche una sensazione che viene dal corpo, piacevole o spiacevole. If it draws our attention, we go there, we feel it. Se questa sensazione accoglie la nostra attenzione, noi notiamo che stiamo avendo la sensazione. We try to experience it intimately. Cerchiamo di farne esperienza in modo intimo. If it's a feeling or sensation in the body caused by an emotion. E se c'è una sensazione del corpo o della mente causata da un'emozione, we go there, we feel it. Andiamo lì e la sentiamo. We experience it intimately. Ne facciamo esperienza intima. But whenever the mind moves, as soon as we wake up, we note and acknowledge what it's doing and bring ourselves back to the body. E come whenever the mind moves, dovunque si muova la mente, we note what it's doing, noi notiamo quello che fa, and we come back to the body. E poi torniamo al corpo. If we feel confused, we begin again with the breath. Se ci sentiamo confusi, ricominciamo col respiro. The breath is our anchor, our reference point. Il respiro è la nostra ancora, il nostro punto di riferimento. Always beginning with the breath. Sempre cominciare dal respiro. Rising, falling. Salire, scendere. Becoming aware of how we are reacting to what we are experiencing. Diventiamo consapevoli di come reagiamo alle cose di cui facciamo esperienza. When something is pleasant, we tend to want to maintain it. Quando qualcosa è piacevole, cerchiamo di mantenerlo. To develop it. E svilupparlo. When something is unpleasant, we tend to want to push it away. Quando qualcosa è spiacevole, tendiamo a volerlo spingere via. Can we become aware of those two types of desires? Possiamo diventare consapevoli di questi due tipi di desiderio. The Buddha said, these desires are the cause of suffering. Il Buddha dice che questi desideri sono la causa della sofferenza. Is it true? È vero. and we become aware of how everything we're experiencing is changing. Possiamo diventare consapevoli che tutto ciò di cui facciamo esperienza è in continuo cambiamento. Nothing ever repeats itself. Niente si ripete. Although each breath is similar, they're never the same. Sebbene tutti i respiri siano simili, non sono mai lo stesso. Everything is arising and passing away. Tutto insorge e passa via. Can we rely on anything? Possiamo avere fiducia in qualsiasi cosa, in qualche cosa. Everything we're experiencing is an object. Tutto ciò di cui facciamo esperienza è un oggetto. There is something happening and something that knows it's happening. C'è qualcosa che succede e qualcosa che conosce, che sa che questo succede. If you have some discomfort in the body, pain in the knee, for instance. Se avete qualche dolore nel corpo, ad esempio in un ginocchio, and you can see that there is the pain, the discomfort, and there is something that knows it. E considerate che c'è questo dolore e c'è qualcosa che lo sa. Can you make that separation more clear to yourself? Potete rendere questa separazione più chiara? Sometimes you can put the word there in front of the noting. A volte si mette la parola là davanti alla nota. So there's pain in the knee over there. C'è là un dolore nel ginocchio. The perceiver cannot be the perceived. Colui che percepisce non può essere ciò che è percepito. Is this true? E questo è vero? When we're in this mode of just sitting, just being, quando siamo in questa modalità di essere semplicemente seduti e semplicemente essere, everything is happening of its own accord. E tutto succede, come si può dire, da sé, per sé. Yeah. The body is offering us sensations. Il corpo ci offre queste sensazioni, whether we want it to or not. E che noi lo vogliamo o no. The heart is offering emotions. Il cuore ci offre le emozioni, whether we want it to or not. Che noi le vogliamo o meno. And the mind is always busy with thinking and imagining. E la mente è sempre occupata coi pensieri e con le immagini. Whether we want it to or not. Che lo vogliamo o meno. Nothing is under our direct control. Niente è sotto il nostro controllo diretto. If I can't control something, how can it be me? Se io I can't control. Se io non posso controllare qualcosa, come può essere me? Putting aside all instruction. Mettiamo da parte tutte le istruzioni. Just watch, just feel, just experience intimately. Semplicemente osserviamo, sentiamo e facciamo esperienza intimamente. Whatever draws your attention. Di tutto ciò che cattura la nostra attenzione. Within the field of awareness. Dentro il campo della consapevolezza. Don't try to change anything. Non cerchiamo di cambiare niente. When we come to the end of a sitting, it's good to reflect a little. Quando si arriva alla fine della seduta, è buono riflettere un po'. How diligent was I in bringing myself back to the present moment? Come sono stato diligente nel riportarmi al momento presente? If I was diligent, I should congratulate myself. Se sono stato diligente, mi congratulo con me stesso. If I thought I could have been more diligent, I should encourage myself. Se penso che avrei potuto essere più diligente, allora devo incoraggiarmi. No need to be critical. Non devo essere critico. How did we deal with the various mental or physical states that arose? Come mi sono rapportato ai vari stati mentali e fisici che sono insorti? Just choose something, such as discomfort in the body. Prendiamo qualcosa, ad esempio il dolore nel corpo. Or sleepiness. O la sensazione di addormentarsi. How did we deal with it? Come ci abbiamo lavorato? In order to maintain mindfulness. In modo da mantenere la consapevolezza. And to continue our investigation. E in modo da continuare la nostra investigazione. So again, if I thought I was skillful, I should congratulate myself. E quindi ancora, se penso di essere stato capace, allora mi devo congratulare con me stesso. If I thought I could have been more diligent, then I should encourage myself. Se penso che avrei potuto essere più diligente, allora mi devo incoraggiare. In this sitting, which of the characteristics was most prominent for you? Durante la seduta, quale delle caratteristiche è stata più presente per voi? The process of desiring. Il processo del desiderare. The impermanence of everything. L'impermanenza di tutto. How everything is an object we are aware of. Il fatto che tutto è un oggetto di cui siamo consapevoli. And how everything is not under our direct control. E il fatto che tutto non è sotto il nostro diretto controllo. Opening the eyes gently. Apriamo gli occhi gentilmente. So we'll stand up in order to do a little practice of metta. E ora ci alzeremo per fare un po' di pratica di metta. So make sure you note your intention to rise. E rendiamoci conto di notare la nostra intenzione di alzarsi.